questo giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'auspicio, sostenuto dalla preghiera, che l'Italia, attingendo dal suo ricco patrimonio di valori civili e spirituali, sappia nuovamente trovare la creatività e la concordia necessarie al suo armonioso sviluppo, a promuovere il bene comune e la dignità di ogni persona e ad offrire nel consenso internazionale il suo contributo per la pace e la giustizia. E lo speriamo anche noi. Clima avvelenato e destabilizzante, dice intanto però il Presidente della Repubblica proprio durante la visita del Papa al Quirinale. Italia lontana dalla cultura del dialogo, aggiunge il Capo dello Stato. All'Italia, Air France ufficializza che non parteciperà all'aumento di capitale. Dice: non vogliamo distruggere la compagnia, restiamo partner. Allarme sui conti dell'INPS, non totale tranquillità, dice il presidente Mastrapasqua. Il problema arriva dall'assorbimento dell'INPDAP, si chiede un intervento. Sempre alta la tensione nel PDL, potrebbe essere rinviato il Consiglio nazionale di sabato. Nasce intanto l'asse antieuropeo tra Wilders e la Le Pen, ospite tra poco il leghista Salvini. Roma ha un problema fra i tanti, tagliati i fondi per provare a mandarli via. Gli storni in migrazione invadono con il guano intere parti della città, ne parleremo con l'assessore all'ambiente. Filippine, l'ONU dice popolazione abbandonata a 6 giorni dal passaggio del tifone. Rintracciati 8 dei 14 italiani dei quali si erano perse le tracce. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti a Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti. Dalla voce che avete sentito in apertura, naturalmente la nostra apertura è dedicata all'incontro tra Papa Francesco e Giorgio Napolitano, la visita del Papa al Quirinale. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Alessandra Schepisi, che ha seguito questa giornata, queste 2 ore di visita. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, vicinanza e cordialità, se vogliamo, i tratti di questo incontro, oltre a una nota di sobrietà in più rispetto al passato. La visita è durata circa 2 ore, Bergoglio ha lasciato il Quirinale a bordo della sua Ford Focus senza particolari scorte, dopo aver avuto un incontro molto affettuoso con i dipendenti del Quirinale, tra cui tanti bambini. Napolitano ha voluto richiamare le parole del Pontefice per lanciare un messaggio alla politica. Quanto siamo lontani in Italia dalla cultura del dialogo, quella cultura che ella ama evocare, ha affermato il Capo dello Stato rivolgendosi al Papa durante il suo discorso nel Salone delle Feste. Una riflessione amara dunque sul clima avvelenato in cui siamo immersi, ma sentiamo un passaggio di Napolitano. Immersi in una faticosa quotidianità, dominata dalla tumultuosa pressione e dalla gravità dei problemi del Paese, e stravolta da esasperazioni di parte in un clima spesso avvelenato e destabilizzante. Quanto siamo lontani nel nostro Paese da quella cultura dell'incontro che ella ama evocare, da quella sua invocazione dialogo, dialogo, dialogo. Ebbene, proprio per noi che ora qui le rendiamo omaggio, come per tutte le espressioni della classe dirigente italiana, è tempo di levare più in alto lo sguardo, di riguadagnare lungimiranza e di portarci al livello di sfide decisive che dall'oggi già si proiettano sul domani. E durante la visita c'è stato anche un lungo colloquio privato tra Napolitano e Bergoglio, si è parlato di crisi economica, delle sue ricadute, soprattutto sui più deboli, e il Papa nel suo discorso ha chiesto più sforzi contro la crisi per il lavoro a tutela della famiglia. Poi un bello in linea con quanto detto da Napolitano, l'Italia appunto trovi la concordia necessaria per il suo sviluppo, ma sentiamo appunto proprio il passaggio dedicato all'Italia e poi la linea può tornare allo studio. Vorrei idealmente bussare alla porta di ogni abitante di questo paese, dove si trovano le radici della mia famiglia terrena, e offrire a tutti la parola risanatrice e sempre nuova del Vangelo. Grazie dunque alla nostra Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti e per questo racconto. Noi passiamo all'Italia e torniamo, consentite, lo so che può essere scontata la battuta, a volare basso. Parliamo di Alitalia. Air France ha confermato che non parteciperà all'aumento di capitale. Ci sembra, Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buongiorno innanzitutto, una mossa quasi scontata dopo il no al piano industriale arrivato ieri in consiglio d'amministrazione, no? Spinetta, presidente onorario di Air France KLM, ieri ha detto che il problema che rimane irrisolto è quello di un indebitamento elevato e quindi questo ha preparato la motivazione poi alla comunicazione che è arrivata solo stamattina. Certo, aver allungato di 2 settimane il tempo per poter sottoscrivere l'aumento di capitale avrebbe dato ancora un piccolo margine a un'aspettativa che era difficile. Air France ha chiarito che non intende sottoscrivere, non è da escludere comunque che tra qualche mese, se la situazione dell'Alitalia dovesse essere ancora più compromessa, certo non vedo grossi margini di miglioramento, le cose potrebbero vedere anche un ritorno di interesse ma in condizioni diverse. Questo però diciamo è un passo oltre. È un passo oltre. Adesso immagino che, come ha detto più volte Lupi, anche il governo si metterà alla ricerca di un nuovo partner, Gianni. Chi lo ha detto? Sì, lo ha detto Lupi, l'ha detto anche qualche socio. A questo punto deve dimostrare se questo percorso è realistico, se è possibile trovare dei partner che siano disposti a investire, perché qui si cercano dei soldi anche, non solo. Su questo punto direi effettivamente ci sono molti punti interrogativi, perché questo tipo di ricerca era già in corso da qualche mese e non ha portato dei risultati. Adesso che Air France ha detto di fare un passo indietro, allora se ci sono degli interessi latenti dovrebbero poter emergere. Certo è un percorso che io non credo possa essere breve. Poi c'è un altro punto: Air France scenderà come azionista, ma rimane un partner industriale perché è legata dall'Italia ad accordi commerciali, industriali, ci sono attività in comune, questi accordi non vengono smantellati perché l'alleanza non è stata disdetta, quindi anche nella ricerca di quello che potrebbe essere, se ci sarà un nuovo partner, questo va tenuto in considerazione, è un elemento che non rende automaticamente così libera l'Italia di muoversi. Grazie Gianni Dragoni, quindi vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Noi continuiamo a parlare di economia, innanzitutto con i dati sul terzo trimestre del prodotto interno lordo italiano, calato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, dell'1,9% nei confronti del terzo trimestre del 2012, il nono trimestre consecutivo di calo. Però, dice l'Istat, rallenta la caduta del PIL, dal quarto trimestre 2012 il calo sia congiunturale che tendenziale è progressivamente diminuito. Intanto l'INPS lancia l'allarme sui suoi conti, dice il presidente Mastrapasqua, parla di non totale tranquillità, dovuta essenzialmente all'assorbimento dell'INPTAP. Davide Colombo, del Sole 24 Ore, è così? Sì, ciao, sì, ma è così. Intanto una prima cosa che vorrei dire è che questa cosa che ha detto oggi Mastrapasqua alla commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali lo aveva detto il 16 luglio nella sala della Lupa di Montecitorio davanti alle principali autorità dello Stato, a partire dal Ministro del Lavoro, quindi sono cose molto note. Lo squilibrio che si è prodotto in particolare è dovuto all'assorbimento dell'INPDAP che è stato deciso nel 2011 e l'INPDAP aveva una situazione di bilancio in dissesto strutturale per una serie di ragioni, quella diciamo congiunturale è legata al blocco del turnover e quindi calo forzato del numero dei dipendenti pubblici negli ultimi anni, che ha prodotto quindi maggiori pensionamenti e maggiori attivi che versano i contributi per pagare le pensioni di quelli che vanno in pensione. E c'è anche però un aspetto strutturale, questo dissesto dei conti INPDAP, dovuto al fatto che lo Stato ha coperto diciamo, le contribuzioni virtuali dei dipendenti statali dal 95 fino al 2007. Dal 2007 con la riforma Damiano non è stato più così e quindi l'INPDAP ha usato tutto il patrimonio che aveva per continuare a liquidare le pensioni diciamo più longeve. Davide, in 20 secondi, quale può essere la linea di intervento da questo punto di vista? Ma ribadire oggi questo problema di squilibrio strutturale nei tendenziali di bilancio dell'INPS con una legge di stabilità aperto, direi che è un segnale forte per il legislatore se vuole portare se vuole adottare una soluzione legislativa appunto che definisca come deve andare avanti il bilancio della Super INPS, diciamo. Vedremo che cosa succederà dunque nella legge di stabilità e grazie a Davide Colombo, legge di stabilità che naturalmente risente in questo momento la discussione sulla legge di stabilità ancora una volta delle tensioni politiche che restano alte all'interno del PDL, addirittura la riunione del Consiglio nazionale potrebbe essere rimandata. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Voci di rinvio che iniziano timidamente a circolare nei palazzi della politica. Berlusconi ed Alfano, dopo l'incontro di ieri sera, si sono dati 48 ore di tempo per trovare un compromesso che eviti strappi poi difficilmente ricucibili. Il Cavaliere, sostenuto dai cosiddetti falchi, ha ribadito la sua posizione caduta del governo Letta qualora il Partito Democratico dovesse votare per la sua decadenza. Dall'altra parte Alfano che non arretra, per il Vice Premier è necessario tenere separate le sorti dell'esecutivo e di Berlusconi. Spartiacque per qualsiasi ragionamento politico e dunque la decadenza da senatore o meno dell'ex presidente del Consiglio, ecco perché si potrebbe arrivare ad uno slittamento del Consiglio nazionale. Ogni forzatura prima di quella data, fanno osservare esponenti politici sia tra i lealisti che tra i governativi, potrebbe non servire a nulla se non ad acuire rapporti già ai limiti. Tra l'altro il timore di molti senatori è che un popolo della libertà spaccato possa compromettere il difficile lavoro che c'è in queste ore, in questi giorni a Palazzo Madama attorno alla legge di stabilità, che insomma non si riesca ad incidere sulla manovra come promesso ai propri elettori. E da Roma è tutto. Grazie dunque al nostro Vincenzo Miglietta. Sentiamo che cosa da dire su questo Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Nel centrodestra si guadagna tempo, ma l'epilogo è vicino, inevitabile, ed è comunque drammatico, nel senso che cambierà la geografia politica. O Berlusconi accetta di uscire dal Parlamento fra pochi giorni, senza pretendere per questo di mettere in crisi il governo, e consegna di fatto la leadership ad Alfano, fautore di questa linea, oppure ci sarà la scissione e il passaggio all'opposizione dei berlusconiani, mentre il gruppo dei moderati si staccherà per sostenere Enrico Letta in una specie di nuovo centro-sinistra. In entrambi i casi non ci sarà da aspettare molto per vedere la fine del film. Entro novembre il Senato si pronuncerà sulla decadenza e sarà, quale che sia il giudizio di merito su questa vicenda che riguarda il protagonista della politica italiana nell'ultimo ventennio, uno di quei passaggi della nostra storia che si segnano sul calendario e si ricordano nei libri di storia. E andiamo alla situazione nelle Filippine. L'aggiornamento. I giorni passano, ma la situazione è tutt'altro che sotto controllo. Come ammette la responsabile ONU per le operazioni umanitarie, Valerie Amos, gli aiuti alle vittime del tifone Haiyan procedono troppo a rilento e la popolazione è al momento abbandonata in una situazione disperata. Siamo scioccati, ha detto ancora, che al sesto giorno non siamo riusciti ancora a raggiungere tutti. Certo, le condizioni sono proibitive, via terra muoversi è difficile se non impossibile e forse riuscirà meglio nell'intento la portaerei americana che si fermerà al largo delle coste colpite dal tifone per fare da ponte umanitario verso la popolazione. Daremo un contributo che non ha precedenti per l'esercito americano, ha sottolineato il generale Paul Kennedy. Alla gara di solidarietà per le Filippine ha deciso di partecipare con uno stanziamento un po' più cospicuo la Cina, che dopo aver annunciato una donazione da $100,000 era stata subissata dai fischi. Monta intanto la protesta per la lentezza dei soccorsi. Se all'inizio era solo la stampa estera a criticare il governo filippino, oggi il rispettato Manila Bulletin rompe gli indugi e titola «Caos e disperazione a Tacloban», descrivendo la rabbia della popolazione disastrata. Le vittime accertate sono 2.300, ma è un bilancio in divenire. 11 milioni le persone colpite dal tifone. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Nelle Filippine intanto appunto è emergenza sanitaria, lo racconta anche Rick Rosales a Roma da 20 anni, che ha lasciato a Tacloban la figlia e la sorella. L'intervista è di Valentina Furlanetto. Abitavo a Tacloban City, proprio la zona che è distrutto dal tifone. Ieri quando ho parlato a loro sentivo benissimo adesso, anche stamattina che stanno benissimo, solo che la casa è distrutta proprio, non hanno da mangiare, non c'è niente, sono sulla strada. Il problema adesso di là è che tutte morte ancora sulla strada. Ci sono ancora cadaveri sulle strade? Cadaveri sulle strade, sì, tutte le strade di Tacloban City stanno ancora. Infatti questo è un grande problema anche tra abitanti, perché non c'è da mangiare, non c'è niente, e poi questi cadaveri sulla strada... È un pericolo anche sanitario? Sì, sanitario, sì. E le testimonianze della numerosa comunità di filippini in Italia andranno in onda anche in uno speciale di Indovina chi viene a cena sabato alle 23. Carlo Gente è già arrivato in studio, ciao Carlo. Ciao Simone, buongiorno. Allora, ci fermiamo per la viabilità e poi parliamo di questo Tohir approdato a Milano. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Clima avvelenato e destabilizzante, Italia lontana dalla cultura del dialogo, dice Napolitano durante la visita del Papa al Quirinale. Il Pontefice, l'Italia ritrovi la concordia per il suo sviluppo. All'Italia Air France ufficializza che non parteciperà all'aumento di capitale, dice non vogliamo distruggere la compagnia, restiamo partner. Allarme sui conti IMSS, non totale tranquillità, dice il presidente Mastrapasqua, si auspica un intervento, probabilmente nella legge di stabilità. Sempre alta la tensione nel PDL, potrebbe essere rinviato il Consiglio nazionale di sabato. Filippine, l'ONU dice, popolazione abbandonata a 6 giorni dal passaggio del tifone. E noi adesso parliamo di calcio e parliamo di questo Tohir che è approdato finalmente a Milano e Carlo Genta deve sciogliere il nodo del presidente dell'Inter, mi sembra di aver capito perché. Nodo che resta da sciogliere, Simone, per adesso si parla più che di calcio, di alta finanza e di viabilità, perché Tohir è alla Pinetina, stamattina è arrivato, ha detto vedrò Moratti e poi parleremo, ma l'appuntamento ufficiale è domani 10.30 consiglio d'amministrazione, in cui ci sarà questo passaggio di consegne. C'è il nodo, hai ragione, della presidenza. Tohir vorrebbe Massimo Moratti ancora presidente, ma Moratti Massimo non è convinto. Le voci più accreditate sono quelle di una sua uscita probabile dal consiglio d'amministrazione, nel quale dovrebbero rimanere il figlio Gianmarco e Rinaldo Gelfi. A questo punto posso immaginare, come puoi immaginare tu, magari una presidenza di Moratti Junior, perché io sinceramente Massimo Moratti presidente senza portafoglio, con il portafoglio in tasca a Tohir, non ce lo vedo. Naturalmente, Tohir che immagino, visto che qua si fermerà pure a vedere Italia-Germania, è sperabile. Chissà. Guarda, io so che vedrà Inter-Chiasso, amichevole stellare, su Italia-Germania non avrà idea, ma dubito che Tohir andrà a San Siro domani sera. Grazie. Venerdì, sì, domani sera. Grazie Carlo Genta, saluto Matteo Salvini, europarlamentare, segretario Lega Nord in Lombardia e candidato alla segreteria della Lega Nazionale, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi che ci ascolta. Lei è milanista in realtà, no? Sempre comunque Forza Milan, anche se temo che abbiamo la squadra e l'allenatore più imbarazzante degli ultimi 30 anni. Senta una cosa, ma che le pare di questo arrivo di Tohir? Che ho visto, se non ricordo male, lei ne aveva scritto, era stato piuttosto duro. No, il calcio è una passione che va al di là dei confini, quindi se ha da portare quattrini e fare giocare bene la sua squadra, va benissimo. Berlusconi calcisticamente ci ha fatto vincere tutto. Se non ha più voglia o più soldi, potrebbe coinvolgere qualcun altro. Allora, io invece l'ho voluta chiamare oggi perché ieri è stata lanciata quest'alleanza contro quello che viene definito il mostro di Bruxelles, tra Geert Wilders, che è insomma questo a capo di questo partito olandese estremamente nazionalista, antislamico, e Marine Le Pen, la leader del Fronte Nazionale. Hanno sancito un'intesa politica per arrivare ad un gruppo anti-Europa nel Parlamento europeo che scaturirà dalle prossime elezioni del 22-25 maggio. Voi ci siete dentro, almeno nei suoi obiettivi, voi ci siete dentro? Io mi sento assolutamente europeo, l'Europa è una bellissima scommessa che adesso stiamo perdendo, per colpa di un'Europa che pensa alle banche e alla finanza e per colpa di una moneta unica che è l'euro, che sta strangolando le economie diverse da quella tedesca. Quindi chi combatte questo mostro al mio sostegno. E quindi, come dire, l'idea di stare dentro questa alleanza, lei ha avuto contatti con costoro? Sì, sì, ci siamo già incontrati, si ragiona regolarmente, ma sulle battaglie quotidiane, sui dazi, sulla politica commerciale, sulla difesa dell'agricoltura, sul no ai super burocrati che senza nessun voto e nessun controllo fanno, forcano e disfano. L'unica cosa che non capisco è perché chi mette in discussione questo tipo di Europa e questo tipo di moneta unica, che nei numeri si rivela fallimentare, deve essere populista, razzista, xenofobo, intollerante, brutto e cattivo. Mi sembra veramente... Beh Salvini, mi scusi, da parte di Wilders e della stessa Le Pen un po' di intolleranza e di razzismo all'interno del partito c'è, non è che manca, insomma, no? Oggettivamente. Vabbè, se limitare l'invasione islamica e dire di no all'immigrazione clandestina significa intolleranza, sono intollerante anch'io, ma penso siano intolleranti la maggior parte degli ascoltatori a prescindere dal loro voto. Se mettere delle regole significa intolleranza, secondo me è sbagliato il vocabolario. Senti una cosa, voi tra l'altro lei sta lanciando un'iniziativa, dato che tutti la danno per quasi certo segretario della Lega, fatto salvo che Bossi non abbia un incredibile exploit, questa rischia di essere la linea della Lega, rischia, insomma, lo dico in maniera neutra. Il 23 novembre fate una giornata contro l'euro. Facciamo una giornata di informazione, anzi di controinformazione, visto che per qualcuno la moneta unica è fonte di salvezza, anche se tutti i numeri sulla disoccupazione, sulla chiusura delle aziende dicono il contrario. Quindi il 23 novembre avremo due docenti universitari, senza nessuna politica in tasca, anzi lontani dalla Lega per non correre questo rischio, che spiegheranno numeri alla mano il perché questo tipo di moneta sta strangolando la nostra economia, il nostro artigianato, la nostra agricoltura, lo sviluppo di quella che è l'Europa del Sud. E quindi informeremo, avremo in tutti i capoluoghi della Lombardia dei banchetti informativi dove distribuiremo dei volantini con dei numeri, dei confronti fra Italia e Germania e una spiegazione sul fatto che non è detto che si debba morire così, non sta scritto, l'euro non sono le tavole della Bibbia, si può mettere in discussione. Per chi volesse approfondire e non si fidasse di Salvini, cosa che è assolutamente legittima, io ricordo che su Google in questo istante se uno digita Nobel, euro, patacca, escono i giudizi sull'euro di 4 premi Nobel per l'economia, da Krugman a Stiglitz, a Amartya Sen, che documentano numeri alla mano come sia nata male, come rischi di far morire l'Europa. Io sono assolutamente... Ma non è meglio, Salvini, non è meglio correggerla la moneta unica piuttosto che uscire? Va bene qualsiasi tipo di correzione, temo che sia tardi per correggere, quindi o si ridiscutono i trattati, da Maastricht a Schengen all'ultimo di Lisbona, e si ricostruisce un'Europa che parte dal basso, che non parte dal tetto, l'Europa è partita dal tetto, con una moneta senza democrazia, senza banca, senza niente. Temo che sia tardi per qualche correzione, si ricostruisce la casa oppure la casa ci crolla. E quindi se lei diventerà segretario della Lega, a parte tutto, mi sembra che le possibilità siano piuttosto forti, insomma, no? Beh, voteranno 20.000 militanti che hanno ciascuno la propria testa, fortunatamente, quindi è tutto positivamente da discutere e da giocare, perché ad esempio sull'euro anche all'interno della Lega ci sono posizioni diverse e accelerazioni diverse. Posizioni diverse. E quindi se lei dovesse diventare segretario lancerebbe una campagna per l'uscita dall'euro? Per ridiscutere tutto, le politiche commerciali, le politiche agricole, le politiche di scambio. E quindi non per l'uscita dall'euro? È una possibilità. Se la Germania domani mattina dicesse è vero, abbiamo esagerato, rischiamo di cominciare a tornare dietro anche noi, adesso perfino gli Stati Uniti, piuttosto che Bruxelles, si accorgono che i tedeschi forse hanno un tantino esagerato, e volesse proporre un euro a due velocità, cosa che la Lega propose 15 anni fa quando cominciò il tutto, discutiamone. Io temo che se non daremo uno scrollone però a Bruxelles continueranno a farsi gli affari loro come fanno da anni a questa parte. Grazie Matteo Salvini, europarlamentare e segretario della Lega Nord in Lombardia e candidato alla segreteria della Lega. Noi adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo di una questione della quale si sono un po' occupati i giornali nei giorni scorsi, ma si è occupato anche il Guardian. Ed è la vicenda, i romani lo sanno bene, io ormai vivo da qualche anno a Milano e ho comunque nitidi ricordi di tutto questo, la vicenda degli storni. Gli storni sono degli uccelli che in questo periodo dell'anno passano da Roma per la migrazione a milioni e riempono letteralmente la città di Guano. Allora, saluto Estella Marino, assessore all'ambiente, rifiuti, agroalimentare, Comune di Roma, benvenuta. Buongiorno. Allora, che cosa è successo? È successo che sono finiti i soldi per avere quegli strani megafoni che servivano a cacciare via gli storni? Sì, diciamo che sono finiti i soldi nel senso che nessuno li ha impegnati per poter fare poi a ottobre questo lavoro, perché generalmente poi queste cose sono delle emergenze però annuali e le conosciamo appunto tutti, e quindi sono cose che richiedono una serie di interventi che però sono assolutamente programmabili. Purtroppo la giunta precedente non aveva programmato quelli per quest'anno. Noi quando siamo arrivati, come tutti saprete, abbiamo trovato la situazione di bilancio, insomma, che è stata per mesi sui giornali, con il buco del bilancio e con la necessità di approvarlo al bilancio preventivo 2013, è ancora appunto non approvato a fine 2013. E questo è un problema di molti comuni, comunque. Sì, è un problema che ci si porta dietro. Noi in realtà una buona programmazione si fa se si ha un bilancio approvato a inizio anno, sì. Quindi stiamo pensando anche di recuperare sul 2014, ora che il 2013 è stato licenziato almeno dalla Giunta, però appunto non avevamo gli stanziamenti necessari finché non si definiva il quadro complessivo del bilancio per far partire anche questo impegno di spese. E quindi adesso i romani navigano in quella roba là. Adesso però, diciamo, come se ne esce? Diciamo, del bilancio, in realtà abbiamo fatto partire subito l'azione, che è quella famosa che insomma si sente andando in giro per il Lungotevere, cioè dei richiami, quelli che allontanano gli uccelli, sono dei dissuasori acustici, e poi in particolare da subito abbiamo potenziato il servizio di AMA per la pulizia, e quindi la squadra che è stata messa in campo è composta da una quindicina di operatori, le quattro spazzatrici per la pulizia, e poi abbiamo aggiunto anche dei mezzi, quelli proprio per lavare le strade per la raccolta del guano. Quindi diciamo che abbiamo lavorato su due fronti, facendo partire subito l'azione con l'uso dei dissuasori per allontanare gli storni, e dall'altra parte incrementando nei punti critici, soprattutto il Lungotevere, la pulizia giornaliera di AMA. Vabbè, terremo sotto controllo anche tramite i nostri ascoltatori che stanno a Roma, i nostri amici che stanno a Roma, e vedremo come va questa vicenda, diciamo, chiamiamola vicenda. Grazie Stella Marino, assessore all'ambiente, rifiuti e agroalimentare del Comune di Roma, per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Salve. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Clima avvelenato e destabilizzante, l'Italia lontana dalla cultura del dialogo, dice Napolitano durante la visita del Papa al Quirinale. Il pontefice, l'Italia ritrovi la concordia per il suo sviluppo. Air France ufficializza che non parteciperà all'aumento di capitale di Alitalia e dice: non vogliamo distruggere la compagnia, restiamo partner. Allarme sui conti dell'INPS, non totale tranquillità, dice il presidente Mastapasqua. Il problema arriva dall'assorbimento dell'INPTAP. Si chiede un intervento, forse arriverà con la legge di stabilità. Sempre alta la tensione nel PDL, potrebbe essere rinviato il Consiglio nazionale di sabato. Filippine, l'ONU dice popolazione abbandonata, 6 giorni dal passaggio del tifone, rintracciati 8 dei 14 italiani, dei quali si erano perse le tracce. Andiamo a Catania, dove si svolge il tradizionale appuntamento di Confindustria Orienta Giovani, aziende e studenti che si incontrano, quest'anno con una speranza di collaborazione più concreta grazie alla nascita dei cosiddetti Erasmus in azienda, esperienze di formazione e lavoro con un contratto di apprendistato. Ivan Lobello, vicepresidente di Confindustria per l'Education, intervistato da Maria Piera Ceci. Sì, non c'è dubbio che ci sono delle oggettive innovazioni che aspettavamo da tempo e che si sono materializzate ovviamente con l'ultimo decreto istruzione. È un fatto importante, i ragazzi oggi hanno la possibilità di accesso a un'alternanza scuola-lavoro che è stato sempre il punto debole del nostro paese, mentre paesi come la Germania hanno messo l'alternanza scuola-lavoro al centro delle loro politiche educative, noi abbiamo separato radicalmente scuola e lavoro, quindi c'è un passaggio importante e oggi qui ad Orienta Giovani si vede in maniera molto forte l'idea di questi ragazzi che sono brillanti, vanno a scuola ma nello stesso tempo insomma guardano al mercato del lavoro. È come se noi allenassimo questi ragazzi per anni e anni, però non li facciamo mai, senza farli mai scendere in campo, insomma, senza mai cercare di giocare una partita o di fare un gol. Oggi la scuola deve fare anche questo, allenamento e poi capacità di scendere in campo ed assumersi le responsabilità anche nel mercato del lavoro. Così Ivan Lobello, noi andiamo all'estero adesso e parliamo di Afghanistan, dove la produzione di oppio ha raggiunto il livello massimo. Lunghe file di delicati papaveri rossi sono il segnale che l'Afghanistan, alla vigilia del ritiro delle truppe NATO nel 2014, sta tornando quello che abbiamo sempre conosciuto. Dopo qualche timido successo nella lotta al narcotraffico, quest'anno il raccolto di oppio ha messo a segno un impennato del 36%, con un record di produzione di 5.500 tonnellate, superiore a tutta la domanda mondiale di eroina. Cosa dobbiamo aspettarci? Una conseguenza sarà che il governo centrale di Kabul diventerà sempre più debole, perché i talebani avranno a disposizione altre risorse finanziarie per acquistare armi e consenso tra la popolazione. Vedremo inoltre tornare sulla scena i famosi signori della guerra, che hanno sempre basato le loro risorse proprio sul narcotraffico. Ma anche qui in Occidente ne sentiremo gli effetti. L'eroina costerà meno e diventerà ancora più diffusa, insieme a una parola devastante che forse ci eravamo dimenticati, overdose. Ecco la ragione per non abbandonare l'Afghanistan al suo destino. Il principe Carlo, l'eterno erede al trono, compie 65 anni, ha studiato una vita per diventare re, ma è ancora disoccupato. Tanti auguri! Il principe Carlo, eterno erede al trono, compie oggi 65 anni, una bella età in cui, nonostante il fornero di tutta Europa, di solito si va in pensione. Carlo no, con un entusiasmo invidiabile e ironia british, il principe non smette di lavorare per l'Inghilterra. Unico bipede non dotato di telefonino, lo si può raggiungere solo tramite il suo guardiacaccia, Carlo lavora 365 giorni all'anno. Negli ultimi 10 anni ha compiuto 99 viaggi. Ama tutti gli animali, tranne i gatti e l'ambiente. È un ecologista da tempi non sospetti. Nel 1980 fu sbeffeggiato perché mise in un contenitore le bottiglie vuote di Buckingham Palace. Cosa è insolita per un principe è anche dalla parte dei contadini, tanto che nella rivista Country Life, direttore ospite, Carlo firma un editoriale in cui difende gli stessi contadini dagli abusi della grande distribuzione. E c'è anche una sorpresa, nella rubrica Ragazze con le perle, il principe direttore ha voluto in pagina la sua adorata Camilla, che non sarà bella come la compianta Diana, ma evidentemente ha altri buoni argomenti. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo adesso, come sempre, a quest'ora con chi sta facendo, insieme a Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, in sciopero della fame per la riforma della legge elettorale, a chi gli fa compagnia. Ci sono persone che hanno deciso che fanno un giorno di digiuno in solidarietà con Giachetti per il cambio della legge elettorale. Chi abbiamo in linea oggi? Ciao, sono Valeria Fiorentini. Mestiere? Studentessa di giurisprudenza e politicante per passione e non per mestiere. Politicante, dunque. E come, sì. come mai questa decisione di fare una giornata di digiuno? Perché reputo la battaglia di Giachetti una battaglia di civiltà che consenta poi agli elettori di scegliere il proprio rappresentante in Parlamento e non dei nominati dall'alto. Quindi grazie. Grazie Valeria Fiorentini. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti.